известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Certe volte è una fortuna, no? Arrivare per ultimi quando le bocce ormai sono ferme, le emozioni sono un po' raffreddate, perché ieri è stata una serata, mamma mia che serata è stata ieri sera in Italia. Noi non abbiamo nulla da aggiungere a tutto quanto sia stato detto, dibattuto e si stia avviando a essere ancora discusso. Abbiamo voluto solo mettere questo disco di due splendide, meravigliose donne da ascoltare. The situation we face could not be more serious. We have inherited an economic crisis as deep and as dire as any since the Great Depression. E ieri invece il prime time televisivo americano è stato a sua volta stravagante, diverso dal solito. Non c'erano serial, non c'erano i reality che vanno anche là per la maggiore, no? I loro X Factor, le loro versioni di questi spettacoli televisivi del XXI secolo. C'era un presidente che parlava. And our nation will sink into a crisis that at some Il presidente che adesso quelli che lo criticano, quelli che non sono sicuri della scelta, quelli che non sono più sicuri della scelta hanno cominciato a chiamare Mister Catastrofe, no? Perché è il presidente che decide di andare in televisione in prima serata e di dire che esiste la possibilità che la crisi americana si trasformi in una catastrofe, che bisogna agire immediatamente, che l'intervento è non solo necessario ma indispensabile e deve essere immediato e che vanno superate le discordanze, vanno superate le divisioni, bisogna soprattutto agire rapidamente, agire in modo efficace, in modo tale da garantire alla nazione una ripartenza che altrimenti è seriamente a rischio. Ieri Obama ha pronunciato anche le parole 4 milioni di posti di lavoro perduti. We lui si dice fiducioso se ha detto che i prossimi due anni saranno tetri, questa è la parola che ha utilizzato per chi lo ascoltava, Mr. Doom, come lo chiamano adesso i commentatori satirici, ma che agendo in modo corretto ora un inizio di ripresa sarà già possibile l'anno prossimo, quindi il 2009 è un anno di penitenza per gli americani, e questo è un discorso assai particolare, assai difficile da far capire al popolo che lo stava ascoltando. Ne parleremo nel corso della puntata di oggi anche con un giornalista come Massimo Gaggi, che all'argomento ha dedicato un libro che ci presenterà nel corso della trasmissione, ma che soprattutto sta provando ad osservare come gli americani cominciano a capire che un'altra vita, in un certo senso, ha avuto inizio, altri ritmi, altre abitudini, soprattutto altre modalità di consumo, altre possibilità di spesa. Poi Barack Obama, al termine del suo discorso, che è stato duro, è stato giudicato anche in modo difforme da chi lo ha ascoltato, c'è chi non è rimasto per niente convinto, c'è chi invece comunque è rimasto impressionato dalla performance ancora una volta particolare di questo presidente, che può non essere condiviso, ma forse merita il rispetto per la sincerità dello slancio che sta producendo, che davvero non sembra abbarbicato, no, a maggioranza e minoranza, a governo e opposizione, ma che prova davvero a stimolare tutti in direzione di uno sforzo che deve essere collettivo. Comunque queste possono essere anche impressioni, possono essere anche retorica, come di retorica è stato accusato ancora una volta ieri Barack Obama. Poi ha risposto alle domande dei giornalisti che sono state non solo sulla questione economica, è stato pungolato ad esempio sui rapporti diplomatici con l'Iran, sull'eventuale ritiro dall'Afghanistan, sul quale non si è sbilanciato affatto, ha detto che anche per quello che riguarda l'Afghanistan la cosa importante è agire in modo intelligente ed efficace. È stato interrogato sulla tortura e su questo argomento Barack Obama ha ribadito il più deciso dei no, la volontà di attenersi ai trattati internazionali. Queste sono state le sue parole, pur non limitando gli sforzi nella lotta al terrorismo. Ha parlato di nucleare, addirittura gli hanno fatto delle domande sull'ultimo scandalo dello sport americano, ovvero l'ennesimo campione del baseball, che se posso dirlo è uno sport che fa fortemente concorrenza al nonno strano vecchia Europa, al ciclismo delle nostre parti. Beh, se nel ciclismo si dice che ormai non si sa più dove guardare senza trovare steroidi, anabolizzanti e altre porcherie, nel baseball è praticamente lo stesso, se non peggio. Adesso quello che per un paio d'anni è stato giudicato il più forte giocatore americano, ovvero Alex Rodriguez, ha candidamente ammesso di aver fatto uso di steroidi, di averlo fatto per diversi anni, ha detto come al solito che non sapeva che cosa stava prendendo, che poi è la spiegazione, come dire, più, no, più fastidiosa, al punto che lo stesso Obama ha detto che ha trovato l'intera vicenda seriamente deprimente. E oggi siamo al giorno dopo, siamo già al giorno delle votazioni. Ormai questo bailout, questo finanziamento all'economia americana, che vi ricordo è stato ridimensionato, ha perso per strada 100 miliardi di dollari, ha visto modificate alcune possibilità di intervento, soprattutto in favore degli stati più poveri e soprattutto in favore di alcune aree, di alcune nicchie di povertà. Perché si è rinunciato a questi interventi? Si è rinunciato perché, rinunciando a spendere questi soldi in favore di stati o in favore di cittadini, si è invece scelto di praticare qualche taglio fiscale in più, che dovrebbe poi alla fine corrispondere a quei voti di alcuni, di un ridottissimo drappello di repubblicani, che dovrebbero però garantire il passaggio del provvedimento al Senato. Poi tornerebbe alla Camera e qui si ricomincerà a discutere, perché naturalmente i democratici potrebbero sempre dire no, allora, questo non è il progetto che noi abbiamo mandato avanti, è un progetto certo, riveduto e corretto. Si spera entro la settimana. Obama ha detto in modo intransigente, in modo duro, senza porgere l'altra guancia, che vuole chiudere questo affare entro la settimana. Adesso, tra poco, nello spazio di Facebook che si chiama Express Yourself, sentiremo che cosa ne pensate anche di questo presidente che sta facendo a tutti gli effetti, dopo una campagna elettorale straordinaria ma anche diversa, sta inaugurando anche una presidenza che, nonostante i suoi inciampi, continua a mostrare i propri segni di diversità. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, and that's the reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rides, the groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing for me whooping. It's your little love nest down where the roses swing. It's your that same sweet love nest. Ain't what the years can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. E questo è Making Whoopee, no? Dalla colonna sonora, ve la ricorderete, di Sleepless in Seattle, quel film anche così XX secolo, in cui ancora mandandosi delle mail si provavano dei brividi agli albori della telematica, quella telematica che poi si è così evoluta, è diventata così potente, facile, amichevole, disponibile, che per esempio una trasmissione radiofonica come Jefferson comincia a utilizzarla per creare una specie di grande rete di connessione fra noi e voi, attraverso la quale, sulla quale, saltando sulla quale discutere giorno per giorno degli argomenti alla ribalta. L'abbiamo chiamata Express Yourself. Express Yourself. Vi abbiamo fatto trovare il solito messaggino in mattinata, presto, appena accompagnati i bambini a scuola. Vi abbiamo detto che succede dalle parti della Casa Bianca, e potrebbe succedere qualcosa del genere se dicessero a noi, per esempio, che la crisi rischia di diventare una catastrofe. Quali e quanti brividi correrebbero lungo le nostre schiene, no? Gli 11 milioni di disoccupati americani si potrebbero trasformare in una cifra senza precedenti, dice Barack Obama. I 4 milioni di posti di lavoro persi in un annetto o poco più potrebbero diventare chissà quante, e via di questo passo. A noi queste cose non vengono dette, anzi veniamo costantemente rassicurati. Tecniche di comunicazione, ma soprattutto tecniche di governo diverso, e vi abbiamo chiesto che cosa ne pensate, se per esempio questo presidente della speranza, Hope, no? Nato a cavallo del cavalcioni questa parola, che adesso chiamano dottor Sciagura, è qualcosa che vi sembra accettabile, compatibile anche dal punto di vista della comunicazione, o se tutto ciò è troppo, no, troppo gonfiato, troppo impressionante. Emiliano, sentiamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Ascoltatori sempre molto caldi, io rimango sempre molto stupito, piacevolmente, della verve anche di chi ci scrive. Per esempio Giusi è molto lapidaria, competenza, certo. Giusi molto lapidaria, con un sapore anche un po' da proverbio, dice: il pessimista è solo un ottimista ben informato. Mm. Poi c'è Roberto Gandini che ricorre insomma slogan altrettanto secchi ed efficaci: face the reality, can we? Guarda, la realtà è possibile, possiamo farlo. Però non mancano anche gli scettici e quelli un po' più critici. Per esempio Luca dice: la verità si saprà soltanto con il tempo, per ora possiamo solo sperare che il realismo di Obama sia in buona fede. Roberto va giù pesante perché invece dice: potrebbe trattarsi anche di un discorso da furbetto per tirarsene fuori e salvarsi comunque. Il furbetto della Casa Bianca. Sentiamo Diego invece che ci scrive: la situazione è anche peggiore di quello che ha detto Obama. Italia, aspetta e vedrai. Vedi che gli apocalittici ci sono anche dalle parti nostre. Giulio scrive: le gravi crisi quando sono agli inizi è sempre meglio non dire tutta la verità, si creerebbe panico economico che bloccherebbe la spesa accelerando la crisi stessa. Ma i governi devono lavorare come se la crisi fosse domani. Su Obama è un ottimo politico, ma non dobbiamo idealizzare la sua nomina, creare false aspettative. Jack scrive: è da troppo poco tempo sul trono per poterlo valutare nell'una o nell'altra ottica, prende tempo. Beppe: sono convinto dell'assoluta percezione negativa che ha Obama, presidente informale e particolare, ma non certo uno sprovveduto catastrofista. Alessandro: Obama rispetta il suo popolo a differenza dei nostri politici, quindi continua questo rimpiattino tra Italia e Stati Uniti nei giudizi dei nostri ascoltatori a favore più dell'America di Obama che dell'Italia, quello dei nostri scommesso. Politici insomma. Poi invece abbiamo Simone che dice: Obama usa questa innegabile verità per spronare i congressisti e l'opinione pubblica a sostenere le sue ricette. Peccato però, e qui c'è una nota amara, che già negli anni 30 si è visto che senza la chiamata alle armi nessuna politica di espansione del debito può tirarti fuori da una crisi. E infine Giorgio dice: spero tanto che Obama non usi la scusa della crisi per forzare il Congresso a votare provvedimenti inopportuni, dice, questa è una parola eufemistica, tipo Bush. Francesco dice che sarà quello che succederà esattamente in Italia, con la differenza che non abbiamo nessun Obama che possa avvisarci. Facciamo le corna però. Per salvare il salvabile. Accidenti, gli apocalittici sono tanti. Io un giorno vorrò fare un referendum tra i nostri ascoltatori. No. Diteci se vi piacciono i nostri politici, punto, come domanda. E poi apocalisse numero 4. Paola dice: ha ragione Obama e non può che usare questo realismo per agire. Mauro dice: non sarà presidenziale, ma non si può certo negare che sia piuttosto convincente. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. E poi tanti altri, ci fermiamo qua, ma vorrei citare almeno Matilde che dice: povero Obama, perché chiamarlo dottor Sciagura? Apprezzo le persone chiare ed esplicite. Luca che dice: prevede il peggio per poter figurare come un eroe in caso di riuscita. Questo è un sospetto maligno. Va bene, grazie come sempre per la partecipazione a Express Yourself. E come si dice una volta, continuate così. Certo che con Facebook potremmo fare una puntata a parte ogni giorno del nostro programma. E perché no? Invece noi voliamo in Corea del Sud, non ne parliamo praticamente mai, però insomma mentre in Italia siamo ancora nel pieno del vortice emotivo, mediatico, di coscienza sulla vicenda di Eluana, arriva con una strana coincidenza, del tutto naturalmente casuale, dalla Corea del Sud una notizia che ci fa riflettere, perché l'alta corte di Seul ha accolto la richiesta dei familiari di una donna in stato vegetativo sull'interruzione delle cure mediche. Il caso è stato molto dibattuto in Corea, dove peraltro buona parte della popolazione è di fede cristiana, riguarda una donna che si chiama Kim, come per resto credo tutti. I coreani, ha 76 anni ed è tenuta in vita da macchinari dal febbraio dell'anno scorso. C'era stata già una prima sentenza a favore della rimozione dei dispositivi che tengono in vita la donna, poi l'intervento dei medici si era fermato in attesa appunto dell'alta corte di Seul. Adesso è arrivata questa sentenza, che è la prima storica in Corea, dove invece nel 97 addirittura una famiglia sudcoreana era stata giudicata colpevole di omicidio, assieme poi a tutta la struttura sanitaria di supporto, per aver rimosso i macchinari che tenevano in vita una persona ridotta appunto in stato vegetativo. Sarebbe interessante continuare a intercettare gli echi, no, di questa vicenda, no, ma anche di questa vicenda coreana, per vedere poi come la società locale, tra l'altro strana commistione di filo americanismo e di localismo, insomma, ha reagito. A proposito sempre di Oriente, la Cina ha confermato oggi che il segretario di Stato americano Hillary Clinton, mi fa ancora un certo effetto dire il segretario di Stato americano Hillary Clinton, potrebbe essere il presidente americano, sì, no, ma comunque bisogna abituarsi, è atteso in Cina per una visita situata tra il 20 e il 22 febbraio, quindi tra una decina di giorni. È arrivato la notizia da una conferenza stampa a Pechino. La portavoce ha precisato che la Clinton vedrà il ministro degli esteri e incontrerà la leadership, ovvero verosimilmente Hu Jintao, il presidente, e il primo ministro Wen Jiabao. La prima missione di Hillary in veste di capo della politica estera statunitense inizierà il 15 febbraio, Giappone, Corea del Sud, Indonesia e appunto per concludersi in Cina. Quindi quali sono le priorità, no, di scelta, di indirizzo, di interlocuzione? Abbiamo capito. Una veloce, se vogliamo. Al volo, oggi è stata la prima udienza per Martin Yang nel processo che lo vede coinvolto in quanto è stato l'autore del lancio di scarpa Wen Jiabao la settimana scorsa a Cambridge. Si è dichiarato innocente, non sappiamo altro, e il 10 marzo c'è la seconda udienza. Ricordo che Wen Jiabao ha chiesto benignamente clemenza per il tedesco 27 anni, studente di Cambridge, che la settimana scorsa gli ha lanciato appunto una scarpa mentre Wen Jiabao era in visita in Inghilterra. Peccato, restano fuori alcune notizie che dal New York Times arrivano, caro Emiliano, attorno a Barack Obama come oggetto del desiderio sessuale nei sogni delle americane. C'è un interessante articolo di Judith Warner. Se non avete sui sogni delle americane, niente da fare, andate a vedere cosa fanno le americane di notte a partire dal 20 gennaio scorso. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it. Cose americane. Barack Obama ha ricominciato a scendere dagli aerei di corsa come faceva quando era un modesto candidato alle primarie, e in parecchi hanno osservato come in un certo senso, forse anche con un certo sollievo, no, il presidente si sia tornato a calare in quei suoi panni dei tempi eroici, sembra passato. Insomma, adesso è a Fort Myers in Florida, in un posto che è letteralmente vessato dalla crisi dei mutui, dove la gente a migliaia è costretta a restituire la casa che non può più permettersi. Farà un incontro nella sala consiliare, comunque in uno spazio pubblico, dirà cose agli americani per spingere il progetto che è in discussione a Washington. Poi parlerà però con i cittadini, riassaporando quel contatto diretto su cui in un certo senso poi ha costruito buona parte delle sue fortune. Nel frattempo al Senato a Washington invece sono in procinto di votare il passaggio della versione emendata del bailout, della spinta economica di sostegno all'economia americana. E come vi dicevo in apertura di trasmissione, sarà un po' un avanti e indietro in questi giorni, in queste ore, con queste votazioni fino al molto augurabile via all'operazione. E noi proprio nei dintorni di tutto ciò ora ci spostiamo a parlare con un graditissimo ospite che è anche un nostro amico, nonché frequente alla voce in Jefferson Ming, ai tempi Jefferson Ming, e ora qui a Jefferson 2. Sto parlando di Massimo Gaggi, che è un inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti d'America, che innanzitutto saluto. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a voi. Oh, caro Massimo, autore di un libro appena arrivato in libreria intitolato La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale, edito La Terza, titolo estremamente esplicito che ora presenteremo, del quale discuteremo un po' con Massimo, a cui voglio chiedere tanto per cominciare. Nel 2006 tu hai pubblicato un libro che poi abbiamo anche presentato qui in trasmissione, dedicato sempre all'America, il tuo centro di interesse professionale in questi anni, chiamato Dio patria e ricchezza, no? Due anni dopo sei, come dire, costretto dagli eventi a fare invece un titolo, La Valanga, così echeggiando questa storia quasi cinematografica che hai magnificamente, magistralmente ricostruito nel tuo volume sulla caduta rovinosa della economia americana. Allora, prova a dirmi, per cominciare, che c'è in mezzo tra i due libri, soprattutto che c'è in mezzo tra i due libri che hai scritto, che ti ha, come dire, sorpreso, spiazzato, colpito. Ma vedi, il primo libro era sostanzialmente un racconto delle caratteristiche principali di un'America economica, ma anche sociale, anche politica, e quel titolo era riferito alla forza trainante del patriottismo nel sistema politico americano, dell'impatto della religione sia sulla politica sia, se me lo passi, anche sull'economia, perché poi, certo, appunto il modo in cui viene interpretata la religione anche come meccanismo che è alla base del successo, certo, materiale delle persone, portava appunto a fare un ritratto che era soprattutto un ritratto sociale prima ancora che economico. Questo libro invece che ho pubblicato ora, e ci ho pensato parecchio prima di farlo, perché ovviamente descrivere una crisi è sempre rischioso, perché la crisi è lunga, certo, e ha una sua evoluzione, non, certo, è finita, certo, e quindi è una sorta di work in progress. Però a un certo punto ho pensato che invece la possibilità che mi dava la terza di fare un libro quasi un instant book, quindi di chiuderlo molto rapidamente, metterlo in libreria già all'inizio dell'anno successivo, ecco, era un'occasione per raccontare quest'anno spartiacque, perché secondo me comunque alla fine della crisi questo 2008 è un anno che cambia profondamente i meccanismi del capitalismo negli Stati Uniti sicuramente, ma anche nel resto del mondo, e quindi il fatto, come dicono nell'introduzione, che in poche settimane dopo il crollo del Lehman Brothers, da settembre a ottobre praticamente, c'è stata una distruzione di ricchezza pari a quella che si era verificata in un intero secolo precedentemente, pari alla somma di tutte e due le guerre mondiali, è un qualcosa che secondo me ancora non abbiamo ben capito fino in fondo cosa significa. È una cosa anche difficile per la mente umana comprendere, cioè stiamo entrando in una sorta di penoso dopoguerra praticamente. Non ci sono macerie fumanti e quindi è difficile crederlo, ma di fatto la distruzione di ricchezza c'è stata. Ecco, tu nel tuo libro, anche in quella introduzione che citavi, che ha un passo quasi quasi cinematografico, ricorda quasi quei film catastrofici, no? In cui, non so, in una sala tutta illuminata dei ricconi fanno una bella festa, non sanno che due piani sopra c'è un incendio, insomma, cose di questo genere. Poi, insomma, nel tuo libro ci sono veramente i cattivi con la C maiuscola. Mi sembra di capire che l'identificazione di questi Masters of the Universe, come si chiamavano nei tempi belli, insomma, dei tycoon dell'economia americana, con un ruolo veramente maligno per te possa funzionare. Ma è possibile? È possibile davvero che alcune teste un po' malate, sicuramente megalomani e avide, abbiano creato un dissesto di questo genere? Non è più insito nella natura stessa della società americana questo disastro? No, un insieme di cose ovviamente, non erano menti malefiche, era semplicemente un sistema finanziario che a un certo punto ha cominciato a funzionare, non ha capito quello che avrebbe comportato la rivoluzione tecnologica dei titoli derivati, ha cominciato a creare questo castello di carte di cui qualcuno non si è reso conto, altri se ne sono resi conto ma hanno pensato che si poteva cavalcare l'onda e magari saltar via un attimo prima del disastro, ma soprattutto poi c'è stato il fallimento della politica e dei sistemi di regolazione. Io credo che poi alla fine Greenspan esce come il personaggio che individualmente ha le responsabilità maggiori, grosso, per quello che è accaduto. Senti, anche, diciamo, la sua ho cercato di fare un ritratto non solo del personaggio ma anche della sua filosofia, certo, politica che è un po' all'origine dei suoi comportamenti. Abbiamo dedicato l'apertura del programma al discorso del presidente della sera di ieri americana, e anche a queste voci. Abbiamo chiesto gli interventi degli ascoltatori su queste voci sempre più ricorrenti, no? Che in un certo senso accusano Barack Obama di essere un po' un cantore della sventura, insomma, Dr. Doom lo chiamano quelli che lo vogliono prendere in giro, ma come lui non era quello della hope, della speranza. Che cosa ne pensi di questa voglia, desiderio, quasi imposizione del neopresidente a parlar chiaro, a dirla tutta la verità agli americani? Come giudichi? Ma esattamente, non per citarmi di nuovo, ma ti dicevo, se parti dall'idea che stai entrando in un penoso dopoguerra, è chiaro che chi lo deve gestire deve spiegare alla gente che si parte dalle rovine fumanti, che non si vedono ma che ci sono. Quindi lui, che ha fatto la campagna elettorale approfittando di questo disastro che ha distrutto ovviamente l'immagine e la credibilità dei suoi diretti competitor, adesso che non ci sono ancora segnali di ripresa e anzi c'è l'idea che la recessione sia no a metà strada, è costretto da un lato per cercare di mandare avanti i provvedimenti che gli servono per dare un minimo di sostegno all'economia, è costretto a usare dei toni appunto molto, molto cupi. Dall'altro si rende conto di questo rischio, tant'è vero che ieri in quella conferenza stampa gli hanno anche chiesto di spiegare quello che aveva detto Biden, una frase abbastanza sibillina, anche se facciamo tutte le cose giuste, nei tempi giusti c'è ancora il 30% di possibilità di fallire, che è una cosa abbastanza agghiacciante. Lui ha cercato di glissare, l'ha buttata un po' sul chissà che cosa ha detto Biden, insomma, perché poi si rende conto e comunque ha cercato di dare un messaggio di, in fondo, di speranza. Però secondo me di quella, adesso non so, non ho sentito la parte precedente della vostra trasmissione, certo. Secondo me il passaggio chiave della cosa di ieri è che più volte lui, descrivendo la sua manovra, questa che dovrebbe essere approvata oggi dal Senato, che fino a ieri veniva descritta dalla Casa Bianca come una manovra destinata a creare 3-4 milioni di posti di lavoro, adesso la descrive come una manovra destinata to save or create, cioè è spuntata la parola salvare o creare. Perché? Perché in realtà questa manovra, per quasi metà sostanzialmente, serve più che a creare, cioè a ricostruire, serve a evitare ulteriori distruzioni, perché qui l'aria che tira è che di emorragia, certo. Non ci sono questi interventi, l'economia privata si sta afflosciando, passami l'espressione, certo. poco economica, crollano le entrate fiscali e gli stati, le città sono costrette a licenziare centinaia di migliaia di pompieri, poliziotti, insegnanti delle scuole pubbliche. Questa manovra per metà serve a sostenere il reddito dei disoccupati, a estendere il Medicare per i poveri, la sanità, l'assistenza sanitaria per i poveri e soprattutto a sostenere il reddito di questi dipendenti pubblici che altrimenti dovranno essere tagliati drasticamente. Bloomberg qui a New York ha già annunciato che ridurrà di 29.000 unità i dipendenti comunali e taglierà alcuni servizi, compresi i nuovi reclutamenti di poliziotti, che in una città come questa, che non è uno scherzo, è molto, certo, law and order, certo, è abbastanza, una cosa abbastanza scioccante. Questo è il libro di Massimo Gaggi, vi ricordo, si chiama La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale. Tra l'altro c'è un interessante capitolo in coda al libro dedicato al paragone più volte proposto tra Obama e Franklin Delano Roosevelt, con condizioni poi che via via si stanno modificando. Massimo, stiamo chiudendo, c'erano tra l'altro domande anche dagli ascoltatori per te, ma io vorrei fartela io piuttosto una domanda, perché proprio questo che stai dicendo ci aiuta un po' a inoltrarci nel provare a spiegare che qualcosa di nuovo e qualcosa di grosso, e credo che anche il tuo libro serva a questo, sta succedendo in America. È la stessa cosa che poi i nostri ascoltatori, partecipando al nostro forum, hanno cercato di riferire all'Italia, ma ovvero sappiamo veramente dove stiamo navigando, abbiamo capito verso dove abbiamo messo la bussola. In un certo senso c'è anche una grande confusione in sospensione, no? In queste nazioni occidentali improvvisamente colpite, no? Da una influenza che potrebbe essere una malattia più grave, ma forse no. Che dici? Non percepisci anche questo senso di spaesamento assai, assai diffuso? Ma io lo percepisco in misura enorme qui negli Stati Uniti, mi sembra ancora minore la percezione in Europa. In Italia, tutto sommato, per adesso la crisi, certo, sì, si sente, i dati sono pesanti della produzione in molti settori, però complessivamente gli stili di vita mi dicono che io sono qua, restano che non uguali, ne hanno, certo, ancora risentito in misura, certo, sostanziale, certo. In America piano piano questa cosa sta entrando proprio nel modo di vivere della gente, nel modo di consumare, e credo che la cosa interessante che vedremo in Obama sarà, da un lato, appunto, la difficoltà di gestire, anche dal punto di vista del consenso politico, una situazione così complicata, dall'altra quella che qualcuno ha cominciato a chiamare la dottrina Rahm, da Rahm Emanuel, il suo capo di gabinetto, il suo chief of staff, che usò quell'espressione tempo fa, sarebbe un peccato sprecare una crisi, intendendo dire con questo, certo, che in una situazione di crisi molto difficile come questa si possono fare delle riforme incisive che magari in tempi normali si farebbe fatica contro l'establishment a fare. Quindi probabilmente questa crisi porterà Obama a impostare delle riforme più profonde dei servizi sociali, infatti già sta parlando di rivedere tutto il sistema previdenziale e sanitario, e anche a cercare di spostare il modello sociale americano da un modello tutto centrato sui consumi. Come sapete, in America fino a ieri il 70% del PIL lo facevano i consumi privati, una quota molto più elevata che negli altri paesi anche occidentali, tant'è vero che l'America è sempre stata la locomotiva del commercio internazionale, e centrarlo un po' di più su consumi collettivi, e quindi tutto il discorso delle energie pulite, certo, della riduzione del CO2, delle auto verdi e le reti ad alta velocità, informatiche ad alta velocità, la sanità digitale, diciamo un po' più spostato sullo sviluppo di queste reti che in teoria nel medio-lungo periodo dovrebbero anche migliorare la produttività e la competitività del sistema America. Grazie a Massimo Gaggi. Vi ricordo ancora il nome del libro appena uscito dalla Terza, La valanga dalla crisi americana alla recessione globale. Be a big day, we'll have a good victory. Bye. E questo è Netanyahu, assai tranquillo dopo il voto delle sorti del suo partito nelle elezioni israeliane che sono in corso oggi. Vogliamo fare un aggiornamento, cercare di darvi notizie aggiornate. Abbiamo richiamato Maria Grazia Enardu, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, sta naturalmente seguendo con la massima attenzione e sta monitorando anche per noi le elezioni in corso. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Pronto, mi sa che abbiamo perso la linea. Pronto? Niente, abbiamo perso la linea. Vi do intanto qualche dato che è già giunto. Dunque, l'affluenza alle urne in Israele alle ore 14 nel 2003 era il 35%, nel 2006 il 31%, nel 2009 il 34%, e si suppone di arrivare fino al 69%. Manca comunque una grossa fetta di elettori che sono all'estero, che non tornano, non possono votare per posta. Tra l'altro, gli israeliani all'estero sono circa il 10% della popolazione, quasi tutti ebrei. Abbiamo recuperato, credo, il collegamento con Maria Grazia. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo appena dato i dati di partecipazione, volevamo da te un aggiornamento sulle ultime notizie che arrivano da Israele. Per esempio, c'entra anche il tempo atmosferico, no, in questa elezione, vero? Sì, certo, il tempo non è ottimo, anche perché è febbraio anche in Israele, e questo naturalmente svantaggia gli elettori più deboli, più anziani, ma può avvantaggiare chi a volte approfitta della giornata elettorale per fare un giretto fuori porta. E c'è un dato migliore rispetto alle ultime elezioni riguardo all'affluenza alle urne, che è un po' più alta. Però va anche ricordata che le ultime elezioni del 2006 videro il minimo storico di affluenza. E poi c'è un sondaggio di Arez, vero? Anche questo è un sondaggio di Arez, sono anche dati ufficiali quelli dell'affluenza, uh-huh, chiaramente. Gli ultimi sondaggi danno letteralmente un testa a testa tra Kadima e Likud, danno anche i laburisti in perdita e danno una risalita consistente di Israel Beteno, che è il partito di Lieberman, e questo forse sarà in ogni caso il dato più importante. Perché il gioco sarà un gioco di coalizioni? Sarà un gioco di coalizione necessariamente di destra, a meno che non si vada a una grossa coalizione instabile per definizione, perché metterebbe insieme religiosi e laici, destra e sinistra, ma questo davvero lo vedremo a partire da domani mattina. Una domanda, come dire, a questo punto all'atre, un po' a margine di questo scenario, ma la famosa a suo modo sinistra israeliana, che per tanto tempo insomma ha segnato anche un modo di essere di sinistra anche nei confronti del modello europeo, che fine ha fatto? È quasi latitante da questa elezione. La sinistra israeliana che ha fondato lo Stato è invecchiata, è andata in pensione ed è in coma. Il problema è che non nasce una nuova sinistra, nonostante lo sforzo anche valido fatto da forze importanti. Per esempio, uno dei partiti della sinistra, a sinistra dei laburisti, Meretz, ha avuto nella campagna elettorale un contributo, uno sforzo da parte di voci importantissime come Grossman e anche Oz. Eppure Meretz, questo piccolo partito, se va bene guadagnerà 2 seggi e si spera che non ne perda. Oh, c'è un ascoltatore che ci chiedeva, in realtà per l'ospite della parte precedente del programma, Massimo Gaggi, inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti, con la nuova amministrazione Obama come cambieranno i rapporti Stati Uniti-Israele, ma invece a te vorrei chiedere come cambieranno, visti dall'altra parte, i rapporti con gli americani, a seconda di chi potrà aggiudicarsi queste elezioni. Si può prevedere un futuro diverso per i rapporti con l'America di Obama a seconda del vincitore? Assolutamente sì. Il punto sarà, per citare ancora una volta Rahm Emanuel, se questa crisi avrà un esito positivo o esiti meno positivi. Deve cambiare anche perché c'è un grosso cambiamento generazionale nei due paesi, e inoltre quando Israele pensa all'America non pensa solo al governo americano, ma pensa anche ai complicati rapporti, complicati anche da un punto di vista religioso, con la grande comunità ebraica degli Stati Uniti, con la quale cominciano a esserci da tempo e ora in modo visibile grosse differenze di opinioni, non solo politiche ma anche religiose. I risultati per quando li possiamo aspettare, Maria Grazia? In Israele li aspettano anche sotto forma di exit poll corretti per l'alba di Israele, loro sono un'ora avanti, diciamo che per le 8-9 domani mattina noi dovremmo avere dei risultati quasi definitivi. Bene, allora confermiamo il nostro appuntamento, ti aspettiamo domani, tra l'altro ci sarà ospite in studio anche Adib Fateh Ali, e quindi potremo mettere insieme punti di vista, orientamenti e giudizi su quello che verrà fuori da queste urne, va bene? Volentieri, grazie. D'accordo, grazie. La Maria Grazia Enardu ci ha aiutato a orientarci nel making of proprio di questo appuntamento elettorale israeliano, che domani vedrà il suo epilogo, i suoi risultati che proveremo a decifrare insieme. Allora, il primo pezzo musicale che avete messo oggi, ci chiedete, il primo in testa era, accidenti, la Tennessee Waltz. Quello è un pezzo di America, è un pezzo di femminilità, anche se mi passate l'esagerazione. La versione era quella dal vivo di Bonnie Raitt insieme alla eccellente Norah Jones. Il successivo invece era l'immarcescibile, no, Dr. John, Making Whoopee. Damiano Tommasi andrà a giocare in Cina, questa me la passa direttamente Emiliano. Damiano Tommasi, il giocatore più riccio del campionato italiano, nonché della Roma, sarà nella Super League con la maglia del Tianjin. Speriamo sia la stessa squadra di Gascogne, vi ricordate che finì perso tra le montagne della Cina. Ultimissima da Arnold Schwarzenegger, che per salvare dalla bancarotta le casse dello Stato della California, di cui è governatore, ha citato in giudizio il ragioniere di Stato per ottenere la sospensione dal lavoro di 15.000 dipendenti pubblici. La California non potrà più pagare tra poco gli stipendi. È quello che dicevamo con Gaggi poco fa. È difficile riuscire veramente a capire cosa sta capitando in queste settimane, in questi mesi in America. Ma noi non smettiamo di continuare a provarci qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Filippo Aureggi. La mail è jefferson2radio24.it e soprattutto i siti Facebook. Per parlare con noi, discutere e proporre usate redazione Jefferson 2. Per partecipare invece alla iniziativa che si chiama Express Yourself, ovvero per far sentire il vostro parere anche agli altri ascoltatori, usate Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Andiamo in replica a mezzanotte. Siamo in podcast 24 ore al giorno, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24.